Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. A meglio parola e chi da conserisci. Questo vecchio adagio siciliano Giovanni Falcone lo conosceva forse meglio di chiunque altro, perché lo ritrovava messo in pratica negli atteggiamenti dei boss che aveva di fronte e perché era nato da quella stessa terra di mafiosi. Ma proprio per questo divenne ancor di più in grado di penetrarne le logiche e i pensieri. Lui, figlio di quella stessa isola plurale dove tutto è messaggio e tutto ha un doppio fondo di significati. Non è allora un caso che l'antico proverbio, incarnato nelle vite di tanti mafiosi, sia nella prima pagina del libro che raccolse le riflessioni del giudice antimafia per eccellenza, cose di Cosa Nostra. Perché se le mafie, tutte le mafie, vivono di silenzi, Falcone seppe colpirle anche con le parole e con la stessa arma. Da mercoledì, qui a Lamezia Terme in Calabria, feudo di 'Ndrangheta, il festival Trame punta a scalfire l'organizzazione criminale ora più potente, con la forza rivoluzionaria della parola, riflette Marcel Padovani, corrispondente da Roma della settimanale francese Nouvelle Observateur, che con Falcone scrisse appunto Cose di Cosa Nostra, di cui abbiamo parlato davanti al pubblico di Lamezia. La parola come testimonianza e la parola come trasmissione di un sapere sono queste due le cose che secondo me hanno mobilitato i movimenti, i giovani, eccetera, dal momento in cui i magistrati hanno deciso di non tenere per sé la loro esperienza. Lui è stato il primo a decidere di fare il passo, di raccontare quello che lui riteneva utile far sapere. Ed è così che è nato quel libro, un momento di presa di coscienza sua, che stava cambiando di lavoro, sai, lasciava la procura di Palermo con tutti i veleni vari e cominciava una nuova vita a Roma. C'era un momento in cui doveva fare il punto. Questa trasmissione della parola ha aiutato anche la crescita dei movimenti antimafia dei ragazzi? Sono convintissima che ha aiutato, perché almeno questo libro l'abbiamo concepito come quasi pedagogico. È un libro fatto per comunicare e credo che sia stato utile per i giovani, ed è stato utile anche, aggiungerò, per le forze di polizia. Un libro che infatti poi è diventato una sorta di Bibbia dell'antimafia. Lui, come tu ricordavi, appunto credeva in questo valore anche quasi pedagogico. Spesso però i magistrati finiscono un po' anche nelle polemiche, perché scrivono, perché parlano spesso. Qual è la tua opinione? Tu mi vuoi trascinare nella polemica? Io penso che la qualità di quello che si scrive dipende dalla qualità delle persone. Quando tu hai una grande personalità, poi scrive sopra, effettivamente c'è qualcosa che passa, ma ci sono tanti altri che scrivono per parlare di sé. Io voglio dire, questo non interessa a nessuno. La parola, oltre a far conoscere, mette in crisi le stesse organizzazioni criminali. Basti ricordare anche quello che è successo con il successo di Gomorra. La potenza della parola è che suscita altre parole, suscita l'interesse. Le parole diventano dei fatti e a questo punto sono importantissime in tutti questi movimenti. Tutte la crisi delle organizzazioni mafiose, la presa della parola è stato un momento decisivo. E non a caso alcune delle parole, alcune delle espressioni usate da Giovanni Falcone sono entrate proprio nel dizionario dell'antimafia. Di sicuro, almeno considerando il fatto che sono vicende per certi versi ancora aperte, è entrato nel lessico dell'antimafia l'espressione delle menti raffinatissime. Esatto. Di cui Giovanni Falcone parlò dopo il fallito attentato alla Daura, su cui c'è ancora un'indagine aperta. Che idea lui si era fatto? Un giorno dopo l'attentato lui mi disse: tu sai che quando c'è un attentato il primo che ti telefona è l'attentatore, indovina chi mi ha chiamato? E io ho un momento di incertezza, così poi dico: Andreotti. Lui mi dice: no, pensa un po', mi ha chiamato il commissario antimafia Domenico Sicca. Ed era un modo per farmi capire che c'era parecchio marcio sotto l'attentato, non c'era forse soltanto, o forse non c'era la mafia. Quella era anche l'epoca dei corvi. Esatto. E sicuramente, diciamo, anche le inchieste ancora aperte sulla Addaura e quelle ancora aperte sulla strage di Via D'Amelio lambiscono proprio un mondo che ha a che fare con quella zona grigia che dalla più stretta compagine mafiosa lambisce anche le organizzazioni politiche. Lui con che stato d'animo, se è possibile parlare di questo per una persona che era così razionale come Falcone, parlava di queste forme di polemiche e attacchi che lo coinvolgevano? Ha elaborato quella nozione di terzo livello che non esiste. Dunque lui non voleva che uno ragionasse sulla mafia e combattesse la mafia con l'idea che la mafia era manipolata dai politici. Anzi, diceva forse esattamente il contrario. Per esempio, quando c'era un politico coinvolto in una faccenda di mafia, lui tendeva a pensare che il politico, se non è direttamente responsabile, deve essere giudicato dalla politica. Se è solo, si fa per dire, uno che sta intorno, uno che ha dei contatti, lui pensava che dovevano essere questi giudicati dai loro pari. Se c'era una rilevanza penale chiara, ovviamente, però lui non ne aveva trovate dei politici di cui si era occupato, e a questo punto riteneva inutile gettare in pasto dei nomi di politici. Era molto molto prudente su questo legame mafia-politica. Tutti ricordano tutte le polemiche che ci sono intorno al cosiddetto reato di concorso esterno in associazione mafiosa, tutte le polemiche che hanno affiancato grandi processi da Andreotti a Dell'Utri. Tu scrivi nella tua prefazione a Cose di Cosa Nostra, ti chiedi se alcuni processi alla politica abbiano danneggiato anche la lotta alla mafia. È possibile. Io sono convinta che i tanti anni che si sono passati alla Procura di Palermo a indagare su Andreotti forse non sono stati usati totalmente bene, con un risultato che ne valeva la pena. Ecco, questa è un po' la mia impressione, non pretendo di parlare a nome di Falcone. Falcone non voleva parlare di un terzo livello. Da cosa nasceva questa classificazione? Era un terzo livello di reato, lui diceva. Non è un livello politico che manipola la mafia. E invece è diventato un po' un altro tipo di categoria, tanto che si parla anche di quarto livello, di cui si è tornati a parlare dopo il nuovo arresto di Massimo Ciancimino, il figlio di Don Vito, per una vicenda legata ad una manomissione di un pizzino del padre con il nome di Gianni De Gennaro, attualmente ai vertici dei servizi segreti, ma un uomo con cui Giovanni Falcone aveva lavorato tanto. Posso testimoniare tranquillamente che Falcone aveva una fiducia totale, assoluta, dimostrata anche pragmaticamente in Giovanni De Gennaro. Lui, Giovanni Falcone, credeva invece alla possibilità che ci possano essere stati trattative, contatti tra Stato e mafia. Lui sapeva che c'erano dei rapporti, come è di dovere, fra carabinieri, forze di polizia e uomini della mafia. Quando tu vuoi sconfiggere un'organizzazione criminale, devi usare anche il metodo dell'infiltrazione. La trattativa vuol dire che tratti da Stato a Stato, e questo non era possibile. Credo che sulla trattativa con la grande T Falcone sarebbe stato totalmente, totalmente contrario. Come lo sarebbe stato Paolo Borsellino, esatto. E come infatti anche l'inchiesta su questo sembra delineare, che forse nella accelerazione, è la convinzione dei magistrati di Caltanissetta, verso la strage di Via D'Amelio ci sia stata anche il fermo no di Paolo Borsellino ad ipotesi di trattative. Ma Marcel, anche tu, avendo la possibilità di incontrare, di conoscere bene Falcone, hai partecipato in qualche modo della cultura siciliana. Quali messaggi possono mandare queste ultime ultime vicende di mafia, che dopo le grandi stragi, dopo la stagione dei pentiti, in questo momento sembrano essere in una fase, diciamo, di una pax silenziosa. Giovanni Falcone pensava a quello che anche Leonardo Sciascia diceva, che quando c'è un momento di pace apparente è il momento in cui le organizzazioni mafiose fanno tanti soldi. Dunque l'attuale pax, almeno per quanto riguarda l'Andrangheta, non è rassicurante. Per quanto riguarda Cosa Nostra, il fatto che il suo Gotta sia praticamente tutto in carcere, a parte Matteo Messina Denaro e qualche altro, questo fa pensare che forse su Cosa Nostra il silenzio potrebbe essere l'inizio di una fine. Come lo stesso Giovanni Falcone diceva, è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha una nascita, un suo sviluppo e quindi anche una fine. Volevo riprendere un altro passaggio importante delle riflessioni di Giovanni Falcone sulla organizzazione della giustizia. Spesso queste sue parole vengono, diciamo, citate come un esempio del fatto che Falcone volesse una separazione delle carriere tra PM e giudici. Sì. Penso che lui a quel momento lì era favorevole alla separazione delle carriere. Voleva che ci fosse il lavoro collettivo, la non personalizzazione delle inchieste e la specializzazione. Se tu personalizzi una inchiesta, tu metti un nome su un responsabile, il quale diventa la persona sulla quale sparare. Diventava un bersaglio. Ma secondo te le opinioni di Falcone in tema di organizzazione della giustizia a volte vengono un po' strumentalizzate nel dibattito politico? Non c'è dubbio che vengono strumentalizzate. Io non so oggi cosa penserebbe Falcone, perché le cose sono molto cambiate. La magistratura è diventata oggetto di attacchi senza fine. Com'era incontrare Giovanni Falcone in quel momento? Era tutta un'impresa, perché dovevi far vedere che eri una persona affidabile, ma una volta, due volte, tre volte, quattro volte prima di arrivare al suo ufficio c'erano tre porte blindate, c'era una telecamera che lui controllava dall'interno ed è lui che apriva la porta, l'ultima porta la apriva lui. Ti dava l'impressione di vivere veramente in una fortezza, e lui diceva che organizzare la propria sicurezza era uno dei primi doveri del magistrato che indaga sulla mafia. Purtroppo l'ultima sua uscita era stata non molto bene organizzata, come sappiamo. Cioè, tu sei convinta del fatto che ci siano state anche delle falle nell'organizzazione? Sono convintissima, perché non è possibile una persona così, così razionale. Ci sono stati dei momenti di cedimento nell'organizzazione che hanno reso possibile l'attentato. Per riascoltare e scaricare in podcast questa come tutte le altre puntate di Storiacce, www.radio24.it. E se siete invece a Lamezia, vi aspetto questa sera alle 21 con Francesco Forgione, già presidente della Commissione Antimafia, e Anna Canepa, magistrato ligure a Palazzo Nicotera. Continuerò a raccontarvi il Festival Trame anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato!